Secondo me la fragilità è un momento molto triste e difficile della vita. Anch'io ho avuto momenti difficili. Ho capito che la fragilità è qualcosa di molto resistente, cioè difficile da rompere. La fragilità, secondo me, è una cosa che hai dentro e puoi rimediare solo tu. La fragilità per me è una sensazione, un sentimento che si può provare dentro. Può essere anche una risorsa perché si possono capire e aiutare meglio le altre persone. La fragilità è fisica o mentale, è una difficoltà da affrontare, ciò che non si conosce. Per me la fragilità è un'emozione che tutti noi abbiamo, un momento di sconforto che ci aiuta a crescere. Secondo me la fragilità è una debolezza che si può affrontare con l'aiuto degli amici, dei familiari. Tutti hanno fragilità e bisogna affrontarla.